Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. That it will indeed serve the purposes intended, and that it will truly promote not only harmony between. Promuoverà non solo l'armonia tra gli stati, ma l'armonia e la comunicazione tra le nazioni del mondo. Sono le parole del sindaco di New York per l'inaugurazione del World Trade Center. È il 4 aprile del 1973. Chiudete gli occhi. Oggi Destini Incrociati vi parla di un incontro che dalla Tour Eiffel arriva alle Twin Towers, lasciando che la verticalità avvicini i nostri protagonisti al cielo. Oggi si parla di altezze, di distanze, di numeri e di calcoli che conducono altrove, ma soprattutto che portano alla realizzazione di un sogno. Ma quali sono i numeri delle Twin Towers? Alte rispettivamente 415 e 417 metri, con una struttura quadrata di 63 metri di lato per 110 piani, sono ancorate al suolo da 21 metri di fondamenta. 192.000 le tonnellate di acciaio e 4.800 i chilometri di cavi elettrici utilizzati, per un totale di 800.000 metri quadrati di superficie calpestabile. Cifre da capogiro. La distanza che le separa è di soli 138 piedi, 42,06 metri. Una distanza minima, verrebbe da dire, quella che a volte c'è fra la realtà e il sogno. Ed è proprio di un sogno che parleremo oggi e dell'ispirazione che può cambiare la vita. Ma cominciamo dall'inizio. Andiamo a Parigi. Eccomi qui a 17 anni con un dente cariato in una smorta sala d'attesa di un dentista francese. A fare luce è una piccola lampadina da 40 watt. Ci sono le vecchiette, quelli che sfogliano distrattamente i giornali. Ho aperto un giornale e in una pagina vedo qualcosa di sublime, qualcosa che mi ispira. Vedo due torri e l'articolo dice: un giorno queste torri verranno costruite. Non esistevano ancora. Una volta costruite, sarebbero state le più alte del mondo. Dovevo avere quella pagina. È il 1968. Chi parla è Philippe Petit. Philippe Petit. Ha solo 18 anni e quell'articolo di giornale dà una svolta alla sua vita. Due torri di 110 piani sorgeranno entro pochi anni a New York e faranno il solletico alle nuvole. La pagina riporta anche un disegno dei due edifici. Vi è sovrapposta la sagoma della Tour Eiffel, che è di soli 320 metri di altezza. Le Twin Towers saranno 100 metri più alte. Incredibile. Chi è Philippe? È un artista di strada. Fin da bambino si arrampica su qualunque cosa sfidando le leggi della fisica. Fa giochi di prestigio, inganna lo spazio e il tempo con abilità e intelligenza. Fa il giocoliere e qualche volta il borseggiatore. Non è ancora il funambolo che conosceremo più avanti, anche se si esercita da tempo a camminare sul filo. La città è il suo teatro. Ho iniziato da giovane. Funambolo autodidatta. Il mio sogno non era tanto quello di conquistare l'universo. Volevo essere un poeta che conquista splendidi palcoscenici. Petit ora prova un'attrazione incontrollata verso quelle due torri. In quello studio dentistico distinto, traccia con una penna una linea tra i due tetti. Deve avere quella pagina. Così, coprendo con un finto colpo di tosse il rumore, la strappa e se la infila in tasca. Una volta a casa la mette nella scatola che riporta la scritta «Progetti» e se la dimentica per 4 anni. Intanto la fantasia di Philippe ha bisogno di nutrirsi. Perché tutti i sogni hanno bisogno di essere alimentati e Parigi in quel periodo gli offre i migliori palcoscenici. Ci sono le piazze, dove coinvolgere i passanti come giocoliere, ma ci sono anche splendidi palazzi che possono fare da sfondo e sostegno per una camminata tra le nuvole. Il cavo comincia a diventare il filo che unisce realtà e immaginazione, sogno e concretizzazione. Philippe vuole scrivere i cieli, regalando esibizioni di una bellezza straordinaria. Ed è proprio durante una delle sue performance parigine che incrocerà a sua insaputa, per la prima volta, l'altro protagonista di oggi. Sono andato a Parigi nel 1971. Avevo 24 anni ed ero molto giovane. Stavo camminando per Boulevard Montparnasse quando vidi un gruppo di persone che faceva capannello intorno a qualcosa. Mi unii agli spettatori e in mezzo ad un cerchio disegnato col gesso sul marciapiede c'era un giovane vestito con un cilindro nero, pantaloni neri e camicia nera. Girava in tondo col monociclo e faceva volteggiare dei birilli. pensai che fosse il più abile che avessi mai visto. I suoi movimenti erano precisi, intelligenti. C'era un certo carisma nel modo in cui si esibiva. Era avvincente. It was very compelling. Chi parla è Paul Auster. Paul Auster è un giovane scrittore nato nei sobborghi di Newark, nel New Jersey, il 3 febbraio del 1947. La sua famiglia è benestante e le cose tra i suoi genitori non funzionano troppo. Si lasciano solo qualche anno più tardi. Nel 1959 il padre acquista per la madre una grande casa, dove Paul trova casse di libri di un vecchio zio girovago che ha viaggiato parecchio per l'Europa. Comincia da lì il suo interessamento per la letteratura e per l'Europa. Ha solo 12 anni e scrive le sue prime poesie. Nel 1970 si imbarca come marinaio su una petroliera, la Esso Florence. Uno scrittore deve vivere le situazioni più svariate se le vuole raccontare. Ed è per lo stesso motivo che nel 1971 vola a Parigi dopo il college per arricchire la sua vita di esperienze che solo la città francese può regalare. Paul non è ancora lo scrittore di fama internazionale, è solo un artista che sperimenta, che cerca la sua strada e, come tutti gli artisti, deve alimentare la sua arte. Andare al cinema è uno dei modi migliori di passare il tempo per un giovane poeta. Un paio di settimane dopo quel primo incontro, Paul Auster è nella sala di un piccolo cinema parigino, uno di quelli dove si possono vedere vecchie pellicole. Oggi si tratta di un film con W.C. Fields, un vecchio comico americano, ma soprattutto un giocoliere, uno dei più famosi all'inizio del secolo scorso. I used to do a trick in the circus with plates and make women scream, children scream. Come here. C'era solo un'altra persona in sala e riconobbi il giocoliere di Boulevard Montparnasse venuto a vedere il film dove Fields eseguiva un famoso numero, quello in cui giocava con 12 torce contemporaneamente. Pensai, non solo questo ragazzo è bravo, ma è serio e studia i grandi del passato. L'arte di Philippe è una continua ricerca, un continuo esercizio. È la vita che diventa arte, condensandosi nel gesto stupefacente di un uomo che ha scelto di vivere su un cavo. Fare il funambolo non è camminare su una corda a qualche metro di altezza, ma è fare uno spettacolo simile ad un gioco d'azzardo. Il filo è un mestiere, come dirà lui, e solo chi è fiero della propria paura e osa tendere cavi su precipizi, prendendo d'assalto i campanili, allontanando e unendo le montagne, può dirsi un funambolo. Ed è sfidando altezze vertiginose e distanze apparentemente brevi tra due edifici che cominciano le performance clandestine di Philippe. Il mondo è il suo teatro. La sua arte si esprime con piccoli passi a piedi nudi su un cavo posto a decine di metri sopra il suolo. E lassù è solo. Per ogni passeggiata aerea, però, c'è bisogno di preparazione. Una preparazione meticolosa e senza possibilità di errore, vista la pericolosità dell'operazione. E in quelle occasioni Philippe non è solo. Ci sono gli amici d'infanzia, come Jean-Louis Blondeau. Jean-Louis Blondeau, il fotografo che ha documentato ogni sua performance. Un giorno ha detto: voglio mettere un cavo su Notre Dame. Credevo che scherzasse, ma allo stesso tempo sapevo che c'era un fondo di verità. E così abbiamo iniziato a parlarne sempre più spesso. E poi abbiamo iniziato a progettarlo. Ci abbiamo messo un anno per trovare il modo giusto per farlo. Un anno per progettare di camminare tra le due torri di Notre Dame. Ma quali sono i numeri di Notre Dame? 128 metri di lunghezza per 48 metri di larghezza. Le torri sono alte 69 metri, mentre l'altezza della guglia è di 96 metri. Per raggiungere la cima della torre sud, bisogna percorrere una scala chiocciola costituita da ben 422 gradini, mentre per la torre nord ne bastano 386. Philippe abita a Rue Laplace e i campanili della cattedrale un giorno sembrano chiamarlo. Succede così al nostro. La città lo chiama. L'ispirazione arriva all'improvviso. Da quel giorno partono le ricerche per realizzare il primo sogno. È una sfida, qualcosa che sembra impossibile, ma che si realizza. Provate a immaginare di svegliarvi una mattina di giugno a Parigi e di trovare fra le guglie di Notre Dame un funambolo. Quel sogno diventa anche il vostro. Philippe capisce che ogni limite può essere superato. Ogni limite sì, ma non le regole. Infatti, quella di Notre Dame è la sua prima esibizione fuori legge. La complicità degli amici è indispensabile per progettare un'installazione notturna grazie alla quale librarsi nell'aria e regalare a Parigi la sua arte. Con lui c'è anche la sua fidanzata, Annie Ellix, che entra nella cattedrale mentre Philippe compie la sua attraversata. L'organista mi chiese: «Che succede? Che ci fai qui?» Io gli ho risposto: «C'è un funambolo». C'è un funambolo che sta camminando tra le torri. Quell'uomo mi ha guardato con un'espressione meravigliata e mi ha detto: davvero? Un funambolo? Non è possibile. È straordinario quello che quest'uomo alto appena 1,65 m, petit di nome e di fatto, è riuscito a fare. Dopo essersi allenato per anni sui marciapiedi di Parigi come giocoliere, adesso vuole conquistarne il cielo come funambolo. E Parigi è solo l'inizio. L'inizio della sua tensione verso l'alto. Una verticalità che si esprime attraverso l'orizzontalità della sua camminata. Inizio anche di quegli incontri fortuiti con il giovane scrittore Paul Auster, che solo più avanti si coloreranno di significato. Si incontrano di nuovo un paio di mesi dopo il cinema d'essai. Paul sta tornando a casa nel suo appartamento parigino, quello dove sta collezionando ricordi che poi gli serviranno per colorare le pagine dei suoi romanzi. Sono circa le 2 del mattino. Si affretta sul lungo Senna mentre improvvisamente vede Philippe, quella figura ormai in un certo senso familiare. Questa volta non è solo, però. Non sta facendo uno dei suoi numeri. È con degli amici e dal fare furtivo con cui si muovono, certamente stanno organizzando qualcosa. Improvvisamente rivedo il giocoliere. Era insieme ad altri ragazzi. Avevano borse, funi, attrezzi e camminavano velocemente. Pensai, sta per succedere qualcosa. Non so cosa sia, ma questo ragazzo ha un piano e voglio capire qual è. Scoprii dopo che si trattava della famosa camminata tra le torri della cattedrale di Notre Dame. La romantica passeggiata tra le guglie di Notre Dame l'indomani è in prima pagina in tutto il mondo. Tutti rendono omaggio al giovane poeta del cielo. Ricordo che il giorno dopo, mentre sfogliavo il giornale, vidi una foto della cattedrale e il giocoliere Philippe T, adesso conoscevo il suo nome. Lui camminava su un cavo teso tra le due torri. Lo trovai straordinario. Paul Auster registra quell'immagine e la mette nel cassetto dei suoi ricordi, la sua simbolica scatola con la scritta «Progetti», come Petit con le Torri Gemelle. Sì, è Philippe Petit. Adesso molti conoscono il suo nome, il nome di quel giocoliere che intrattiene i passanti con la sua abilità nel far volteggiare gli oggetti e che da oggi è anche l'artista del cavo. È il 26 giugno del 1971 ed è nato per tutti un nuovo artista. Dopo solo una settimana dalla passeggiata di Notre Dame e dalla nascita di un poeta del cielo, il 3 luglio a Parigi il mondo perde un poeta, Jim Morrison, rifugiatosi nella capitale francese per dedicarsi interamente alla poesia, colui che ha camminato sul filo tra realtà e sogno fino a raggiungerne la fine. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Dopo la sua performance parigina, Philippe comincia a immaginare di realizzare un'altra passeggiata tra le nubi, però stavolta fuori dalla Francia. Il cielo non ha confini, il cielo è del mondo intero, il cielo è di Philippe. E così parte per l'Australia. A Sydney c'è l'Harbour Bridge, il ponte ad arco più alto del mondo che collega la North e la South Sydney. Una mirabolante opera dell'ingegno umano. Ma quali sono i numeri dell'Harbour Bridge? 1149 metri di lunghezza con un arco centrale di 503 metri. L'altezza dell'arco è di 134 metri. I quattro piloni che reggono tutta la struttura sprofondano nel terreno per 12 metri. 52.800 le tonnellate di acciaio impiegate, dove solo l'arco ne pesa 39.000. Il panorama da lassù è strepitoso. Si vede tutta la città, il quartiere vecchio The Rocks e quel fuoco d'artificio che è l'Opera House, inaugurata proprio nel 1973. Oltre alle tante isolette che punteggiano la baia. Paul Hogan, il protagonista di Mr. Crocodile Dundee, prima di sbancare il botteghino con una serie di film sul cacciatore di coccodrilli, ci ha fatto l'operaio. Un coltello bello. Questo è un coltello. Oltre agli amici di sempre, Philippe ha bisogno anche di complici sul posto per organizzare quest'altra passeggiata aerea. ma un uomo come lui non ha problemi a coinvolgere nei suoi sogni altre persone. La sua storia è magnetica, la sua abilità ipnotica. La solita banda è al suo fianco. Ora con lui c'è anche un australiano, Mark Lewis. Mark Lewis. Una sera siamo arrivati di nascosto al pilone del ponte del porto di Sydney. Avevamo con noi l'attrezzatura, abbiamo montato il cavo. La mattina ci siamo dileguati e ci siamo seduti in strada a guardare Philip che andava avanti e indietro. La domanda che tutti si pongono davanti a imprese del genere riguarda i preparativi. Cosa significa montare l'attrezzatura per un funambolo? Significa fare calcoli, studiare lunghezze, torsioni, oscillazioni e trasportare materiale pesante su edifici altissimi. Significa preparare il cavo ad ospitare i suoi piedi sgrassandolo per bene. Significa trovare il modo di lanciare da una parte all'altra dell'edificio quel cavo. Significa ancorarlo per dargli stabilità. Significa non tralasciare nulla, visto che si tratta di un filo che separa dalla vita alla morte. Anche stavolta il sogno si realizza. È il 3 giugno del 1973. Una volta sceso dall'Harbour Bridge dopo la sua camminata clandestina, c'è la polizia ad aspettarlo. Ma Philip non si perde d'animo. Anzi, prosegue la sua esibizione. Eravamo sul ponte e il traffico era congestionato. La polizia ovviamente è arrivata dopo pochi minuti. Mentre veniva portato via, ha sfilato l'orologio a un poliziotto. È stata la prima cosa che ha fatto. Philip è riuscito a sfilare l'orologio dal polso di quel poliziotto e a nasconderselo in tasca. Un ennesimo sberleffo alle regole. Tornato a Parigi un mattino, Philip ha un sussulto. Il giornale riporta una doppia pagina con le foto delle Torri Gemelle. Hanno quasi finito di costruirle. Allora gli viene in mente il ritaglio del giornale strappato anni prima dal dentista e la scatola con la scritta progetti dove l'aveva riposta. Si riaccende in lui il desiderio di compiere quell'incredibile attraversata. La realizzazione del suo sogno più grande si sta avvicinando: camminare a più di 400 metri di altezza, unire con la sua abilità quella maestosa opera umana, attraversare lo spazio per conquistare la Terra. È il 6 gennaio del 1974. Philip prepara i bagagli e parte per l'America. Sono giorni felici per Philip. In America, proprio nel gennaio del 74, va in onda per la prima volta sulla TV la famosissima serie Happy Days. E Philip comincia a fantasticare sul suo progetto più grande. È apparentemente irrealizzabile, ma la sua mente è partita e nessuno la può fermare, nemmeno le preoccupazioni degli amici. Quello stesso anno esce Frankenstein Junior, il celebre film di Mel Brooks. La fiducia nelle proprie capacità del dottor Frankenstein è la stessa di Philip. Si può fare! Un giorno Philippe mi mostra la foto di due edifici sulla pagina di un giornale e mi fa spaventare. È inumano voler andare lassù e camminare a 450 metri da terra. Philippe non si ferma, è determinato. È il suo sogno e lo vuole realizzare. Quando arriva alle Twin Towers, appena uscito dalla metro ai piedi del World Trade Center, la prima cosa che pensa è impossibile. Eppure quella U formata dalle torri sembra essere magnetica, lo attira e lo spinge a entrarvi. Così si ritrova sulle scale di emergenza, poi su un ascensore e poi di nuovo su una scala di sicurezza. Elude la sorveglianza finché raggiunge il tetto. Eccolo, lo scenario che stava cercando in un connubio tra altezza e solitudine che gli mozza il fiato. È impossibile, ma lo farà. And the minute I got out, quando le vidi uscendo dalla metropolitana, capii che non erano un sogno. Ma il mio sogno è andato in frantumi in un istante. Impossibile. Era chiaramente impossibile. Non solo camminare a quell'altezza, ma portare lassù l'attrezzatura e installare il cavo. Ma qualcosa dentro di me mi spingeva verso di loro, a toccarle. Comincia a progettare come realizzare il suo sogno. Intanto si documenta sulle torri, raccoglie tutto ciò che parla del VTC. Foto, articoli di giornali, riviste, studi scientifici. Le torri sono diventate le sue torri. Eppure sente che tutto il materiale che sta accumulando non basta. Per conoscerle a fondo deve ritornare lassù più volte, sul tetto del mondo. Le deve scrutare da vicino per scoprirne tutti i segreti, per poterle possedere. Comincia ora la fase di spionaggio. Philippe quotidianamente si reca al VTC, elude la sorveglianza soprattutto nell'ora di pausa e tra scale e ascensori sale fino al tetto. Quando è lassù fa l'inventario dell'attrezzatura che gli servirà per l'installazione. Trova nascondigli, verifica punti di ancoraggio possibili. Anche in questo caso cerca complici sul luogo e trova Jim Moore, il primo amico di Philippe a New York. Mi disse che voleva mettere il cavo fra le torri gemelle. Mi sembrava una cosa folle. Non avevo mai conosciuto un funambolo prima, quindi non avevo idea di quali sarebbero state le conseguenze, di cosa sarebbe successo. Sembrava un'avventura divertente cui partecipare. Così accettai. Jim è un complice fondamentale nella preparazione. Aiuta Philippe fotografando gli edifici e documentando al meglio i preparativi. Fotografammo tutto il possibile, cercando di capire dove avremmo potuto legare il cavo. Philippe e Jim visitano le torri molte volte, a volte spacciandosi da spedizionieri, a volte da giornalisti. Affittano addirittura un elicottero per vederle dall'alto, per stare più in alto del cavo, forse un modo per ingannare la mente e vincere la paura. Ma il pilota non riesce ad avvicinarsi molto alla facciata che interessa Philippe per via delle correnti. A quell'altezza, infatti, il vento ha una forza differente. Un giorno sente addirittura stridere sotto ai suoi piedi quella struttura d'acciaio. Le torri oscillano, bisogna tenerne conto. Mentre scende le scale dopo uno dei tanti sopralluoghi, sente di voler lasciare un segno, un messaggio. Sulle scale decisi di disegnare un piccolo affresco. Mi serviva una prova tangibile che mi mostrasse che stavo procedendo nelle varie fasi che mi avrebbero portato a salire su quel cavo. L'affresco riporta la facciata di una cattedrale gotica con un cavo tra i campanili e la scritta Notre Dame, 26 giugno 1971. Più in basso disegna un ponte ad archi e nel mezzo ci mette un funambolo. Di fianco la scritta Ponte del Porto, Sydney, 3 giugno 1973. Più sotto abbozza le torri dei suoi sogni e scrive World Trade Center. È un enorme punto di domanda. Il 9 marzo del 1974, Philippe torna in Francia per preparare il piano. Oggi, a Destini Incrociati, si parla del coraggio di realizzare i propri sogni e di come l'ispirazione sia frutto del caso, di un momento. Parliamo di Philippe Petit, funambolo parigino, e di Paul Auster, un allora sconosciuto scrittore americano. Le loro storie si sono intrecciate fin dall'inizio della carriera di entrambi, ma è l'incontro di New York, all'ombra delle Torri Gemelle, che darà tutti e due una svolta, quando Philippe camminerà nel cielo di New York cercando di bussare alle porte del paradiso. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Destini incrociati. A Destini incrociati oggi siamo a New York. È il 1974 e un uomo, un giovane funambolo francese, Philippe Petit, sta compiendo un'impresa tanto meravigliosa quanto proibita sulle Torri Gemelle. Stendere un cavo che le unisca e attraversarlo nel vuoto. Un giovane scrittore americano, Paul Auster, ne segue il percorso. Philippe è tornato a Parigi. La prima visita al VTC gli è servita per avere le idee un po' più chiare sul da farsi. Adesso riordina tutto il materiale raccolto in un quaderno a spirali con il titolo scritto a mano VTC Organisation. Cominciano le riunioni a casa dell'amico d'infanzia, Jean-Louis, lo stesso che lo aveva già aiutato nella performance di Notre Dame. Tutti sanno che anche questa volta non potranno fare la camminata tra le nuvole in maniera legale. Nessuno a New York conosce Philippe e non possono di certo chiedere di mettere un cavo tra le due torri, perché di questo si tratta. Attraversare il vuoto che separa le due torri gemelle col solo supporto di un cavo. Grazie alle foto fatte durante il primo soggiorno newyorkese, Philippe e gli amici riescono a costruire un modellino per studiare come realizzare l'installazione. Cominciano gli allenamenti. Avevo trovato un campo gigantesco. Non avevo i soldi per riprodurre i tetti delle torri, ma solo la sagoma per fare pratica. Qui Philippe si esercita a camminare sul cavo. È una specie di campo d'addestramento e gli amici lo aiutano a trovare l'equilibrio anche sulla fune che oscilla, perché a quell'altezza, a più di 400 metri, le estremità delle torri gemelle sono state realizzate per oscillare, per assecondare il vento. È Philippe a chiedere agli amici di far muovere il cavo mentre si avventura per attraversarlo. Nonostante la confidenza che sta acquistando col cavo, Philippe capisce che deve tornare a New York per capire meglio come entrare nelle torri, come portare sul tetto tutta l'attrezzatura. E così parte per un secondo viaggio. Un altro uomo, questa volta americano, parte da Parigi per New York. E Paul Auster ha deciso di tornare. Considera chiusa quell'esperienza alla ricerca dell'ispirazione. Forse è l'ispirazione stessa che lo spinge a rientrare. Una sorta di destino che lo vuole presente ad ogni esibizione di Petit. New York è la sua città e si respira aria di libertà, ma cerca di portarci anche un po' di Parigi. Traduce Sartre, Simenon, Mallarmé. Cerca nei loro scritti quella poesia coraggiosa, quella costruttiva solitudine e quella sotterranea ribellione che quel piccolo francese gli suggerisce indirettamente da anni, anche se lui si sente pronto adesso ad attraversare il suo filo, quello della realizzazione del suo sogno, scrivere per professione. New York è la città giusta, è la sua Parigi. Qui deve ambientare la trilogia, l'opera che lo renderà uno scrittore di fama internazionale. Al posto della Tour Eiffel ci sono le Twin Tower a proteggere la sua arte, a farla fiorire. Ci vuole solo un segno e poi è pronto a partire. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. When I'm taking a Greyhound on the Hudson River line, I'm in a New York state of mind. I seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under the evergreens. I know what I'm needing. I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It comes down to reality, and it's fine with me 'cause I've let it slide. I'm in a New York state of mind. Oh, nel frattempo il funambolo è tornato a New York. Si apposta ogni giorno all'entrata del VTC, segna ogni cosa, riempie il suo quaderno con annotazioni e disegni. In uno dei suoi appostamenti per studiare il via vai delle torri, come avvengono le registrazioni dei visitatori, quali sono gli orari della sorveglianza, calpesta inavvertitamente un chiodo. Non ci voleva. Questo imprevisto lo costringe per un po' di giorni a usare le stampelle. È la fine, pensa Philippe. E invece, grazie alle stampelle, si aprirono le porte del paradiso. Le guardie mi dicevano, posso aiutarla? Le tengo la porta? Nessuno mi chiedeva un documento o cosa stessi facendo lì. Era favoloso. Il destino favorisce il nostro protagonista. Sembra che lo voglia mettere sulla strada giusta per realizzare il suo progetto. Philippe, infatti, è sempre più vicino alla realizzazione del suo sogno. Danzerà tra le due torri e lascerà tutto il mondo a bocca aperta. L'America sembra generosa, l'America sembra essere la patria dove tutto è davvero possibile. L'America è anche il luogo dove quegli incontri fatti nel corso della sua carriera da funambolo trovano una nuova collocazione. Il caso sta per intervenire ancora una volta, portando Philippe vicino all'altro protagonista di oggi, Paul Auster. Il giorno tanto atteso si avvicina. I preparativi sono quasi ultimati. Philippe deve poter salire e perlustrare in tutta libertà gli ultimi piani delle torri, quelli dove lascerà il materiale per l'installazione. Studia diversi escamotage. Tra questi si finge un giornalista di Metropolis, la rivista di architettura numero uno in Francia. Dice che sta preparando uno studio sugli operai che lavorano al VTC. Chiede il permesso di intervistarne alcuni al presidente del VTC, Guy Tozzoli, il quale si dice favorevole, poiché sembra un modo per fare della pubblicità al neonato edificio. Mi disse di essere un giornalista francese. Non mi venne in mente di chiedere le sue credenziali. Doveva scrivere una storia sul VTC per i giornali francesi. Era con due fotografi. Sarebbe stata una buona pubblicità. Con grande meraviglia, in una delle sue visite clandestine sul tetto delle Twin Tower, all'entrata del VTC, vede un uomo con lunghi capelli neri e due baffi a manubrio che gli rivolge la parola. È Barry Greenhouse, un uomo d'affari che lavora all'82esimo piano e che riconosce Philippe. Lo aveva visto qualche anno prima fare il giocoliere a Parigi e gli chiede cosa ci faccia in un luogo come quello. A Philippe non sembra vero. Barry sembra l'ennesimo incontro del destino, quello che può fare la differenza nella realizzazione del suo sogno. E così comincia a raccontare del suo progetto, sperando in una cooperazione. Avere un complice all'interno dell'edificio è quanto di meglio potesse capitare. Lo vedo nell'ingresso e si vede che non apparteneva a quel luogo e gli dico, Philippe, che piacere vederti. Mi racconta delle sue imprese da funambolo e capisco che vuole fare qualcosa al VTC. È assurdo, ma mi stava attirando nel suo mondo e io non sono una persona contraria a fare cose leggermente, non proprio legali. È Barry a fornire a Philippe e ai suoi complici i pass per salire sulle Torri Gemelle. Il piano è pronto. Si può decidere una data. Quella data è il 7 agosto del 1974. Il 74 è anche l'anno in cui l'America accoglie un altro francese e lo premia per la sua arte. Si tratta di François Truffaut, che con Effetto Notte prende l'Oscar come miglior film straniero. Ma cos'è questo cinema? Che cos'è questo mestiere? In cui tutti fanno l'amore con tutti, in cui tutti quanti si danno del tu, in cui tutti fingono. Ma che cos'è? Lo trovate normale? Ma il vostro cinema, io lo trovo irrespirabile! Bene, a me fa schifo il vostro cinema! Porti via sua moglie che sì, mi fa schifo, mi fa schifo! Mi fa schifo! Da quel 7 agosto del 74, l'unione delle Torri Gemelle attraverso un cavo sancisce l'unione simbolica tra i nostri due protagonisti. I diversi incontri fatti nell'arco degli anni stanno per scoprire ora il loro significato. La vita di Philippe T. sta per incontrarsi con l'arte di Paul Auster e la vita di Paul Auster sta per dare un'opportunità all'arte di Philippe T., arte fino ad allora clandestina. Perché alcune regole vanno infrante, almeno all'inizio. Se si vuole dare al mondo uno spettacolo, bisogna essere un po' ribelli per diventare artisti fino in fondo. Destini incrociati a New York. È il 7 agosto 1974. Un giovane funambolo francese sta per compiere la sua più grande impresa, camminare su un cavo tra le torri gemelle. Un giovane scrittore americano, Paul Auster, è tra la folla che assiste allo spettacolo. Altre volte nel corso della loro vita si sono incontrati, ma oggi qualcosa è diverso. Gli amici di sempre di Philippe lo stanno supportando per la realizzazione del suo sogno. Camminerà a 400 metri di altezza. Lo studio di tutta l'operazione è stato duro e approfondito. Ora sono pronti. Hanno i pass per salire fino al tetto. Hanno il materiale necessario. 76 metri di fune d'acciaio galvanizzato. Arco e freccia per agganciare col filo l'altro edificio. Walkie-talkie per comunicare con i complici sull'altra torre. E i rispettivi 60 metri di filo, morsetti, bilanciere. Il tutto in una cassa che pesa centinaia di chilogrammi. È tutto pronto. Si tratta solo di portare il materiale al 110° piano. Con un montacarichi riescono ad arrivare al 104° e poi da lì su per le scale, approntando tutto sul tetto. Si intrufolano il giorno precedente, passano la notte a montare il cavo e al mattino del 7 agosto Philippe realizza il suo sogno. Oggi è successo qualcosa di straordinario. Un uomo ha camminato su un filo a 412 metri di altezza senza protezioni tra le torri gemelle. Si tratta di Philippe Petit. Sta succedendo una cosa straordinaria lassù. Quando ho visto Philippe lassù è stato meraviglioso. Era così bello, era come se camminasse su una nuvola. Iniziai a gridare: guardate, guardate! La gente si avvicinava, ma nessuno lo vedeva. Mi chiesero cosa stessi guardando e io dissi: ma come? Un funambolo! E guardate come cammina! Guardai in basso e vidi una scena che non avrei mai più rivisto. Sentivo la folla. Vedevo la folla. La sentivo mormorare. La traversata sta avvenendo con successo. È incredibile quello che accade nel cielo di New York quella mattina del 7 agosto del 1974. La meraviglia invade anche i poliziotti. Io e Sergente Meyers abbiamo visto il funambolo danzare. Non si può dire che camminasse. Era circa metà strada tra le due torri. Quando ci ha visto ha cominciato a ridere. Si è persino sdraiato sulla fune. È stato uno spettacolo. La polizia gli sta chiedendo di scendere. Non può stare lassù. Siamo arrivati e gli abbiamo chiesto di scendere dal cavo, ma lui è corso fino a metà. Eravamo tutti rapiti nel guardarlo. Abbiamo capito che non sarebbe sceso perché si stava divertendo troppo. Così abbiamo detto al suo complice che avremmo chiamato un elicottero per portarlo via. Ho assistito ad una cosa a cui nessuno al mondo assisterà più. Un'esperienza unica. Philippe è padrone dei cieli di New York. Philippe cammina sulle teste della gente e vola nei loro cuori. Dopo 45 minuti Philippe arriva all'altra torre dove lo aspetta la polizia. Lo fanno scendere, lo fanno sdraiare e lo ammanettano. Alla domanda del perché l'abbia fatto risponde: non c'è un perché. Quando vedo un posto magnifico dove mettere il mio cavo, lo metto e attraverso. Non c'è un perché. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Ma dov'è Paul Auster quel mattino del 7 agosto del 74? È a New York. Vi è tornato da Parigi alla fine di luglio. La sua esperienza nella capitale francese per arricchire la sua anima da scrittore è finita. Sta passeggiando. Senza accorgersene, è arrivato ai piedi delle Twin Tower. Sono maestose, ma in un certo senso rassicuranti. Strano, c'è della gente riunita lì sotto e tutti guardano all'insù. La sensazione è quella del déjà vu. Non a caso una parola francese per descrivere quello che sta accadendo nella testa e nel cuore di Paul. E se di mezzo ci fosse di nuovo lui, Petit? Ecco che il cassetto dei suoi ricordi si riapre grazie a quell'immagine sublime e tutto acquista un senso. Ho pensato, ovunque mi giri mi imbatto in quest'uomo. Pensai che mi stesse dando il bentornato a New York. Sentivo con lui un legame. Ritorna così il destino che li ha fatti incrociare varie volte nella loro vita. Destino che ci mette lo zampino di nuovo 6 anni dopo, nel 1980, ad una festa. Sono invitato ad una festa e c'è anche lui. Ci presentiamo e iniziamo a parlare. Gli dico che lo seguo da 8-9 anni ed ero molto colpito dalle sue performance. Ecco l'occasione della vita per Philippe. Davanti a lui c'è un giovane scrittore americano. Anche lui ha scritto alcuni libri, ma nessuno glieli ha ancora pubblicati. Mi dice che ha scritto un libro, ma è stato rifiutato da 18 editori. Gli dico che ci avrei pensato io. Lo aveva scritto quando aveva 20 anni e si chiamava Trattato sul funambolismo. Un libro meraviglioso, poetico, intelligente. Ho trovato l'editore e ne ho curato la traduzione. Sette libri pubblicati da allora, compreso Toccare le nuvole, da cui è stato tratto il film Man on Wire di James Marsh, vincitore dell'Oscar per il miglior documentario nel 2009, dove si racconta dell'impresa alle Torri Gemelle. Il trattato sul funambolismo rimane il suo libro più famoso, quello che riassume la sua personalità e la sua arte, un vero e proprio manifesto per la realizzazione dei sogni. È il mio progetto, quello che puoi chiamare il lavoro della mia vita. Pazzesco. Gli incontri con Philippe T. scuotono Auster nel profondo. La sua arte ne risente. Quel cassetto dei ricordi ora è pieno ed è pronto ad essere tradotto in poesia. Eccole le esperienze di cui uno scrittore si deve avvalere. Eccoli gli incontri che segnano la svolta, senza un perché. Per Paul Auster il successo arriva con la trilogia di New York e come sceneggiatore di Smoke e Blue in the Face, storie di vita americana all'interno di una tabaccheria. La caratteristica del funambolismo è che ci sentiamo esseri umani migliori quando vediamo qualcuno fare qualcosa di così magnifico. Ed è magnifico perché non c'è una ragione. Uno dei libri che porterà Paul all'attenzione del grande pubblico è Mister Vertigo, la storia di un ragazzo prodigio che impara a volare. Una storia che cattura i lettori di tutto il mondo, dove si parla della potenza di credere in un sogno, apparentemente impossibile, per poterlo realizzare. Mister Vertigo, insegnami a volare di nuovo. Mister Vertigo, insegnami a salire nel cielo. Mandai il libro a Philippe mentre lui mi inviava i suoi. Mi chiama e mi dice: hai capito tutto, hai colto nel segno. Quando descrivo nel romanzo la prima volta che il ragazzo si solleva da terra, dico che si trova ad un altro livello di coscienza. Philippe mi disse: è esattamente ciò che succede. Le Torri Gemelle sono state unite da un uomo su un cavo. Due uomini ne scriveranno, ritrovati all'ombra della loro imponenza. Torri che rappresentano legami, destini, gemelle come nella vita, anche nella morte. Ma questa è un'altra storia. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.